Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ancora le tensioni internazionali sul fronte dei cambi, l'euro continua a rafforzarsi sul dollaro, o per meglio dire, come segnalano alcuni ascoltatori, è il dollaro che continua a indebolirsi su tutte le valute, anche sullo yen, nonostante l'intervento della Banca Centrale Giapponese e l'annuncio del governo giapponese di un fondo da 44 miliardi in cui investire per tenere, diciamo, in qualche modo basso o non troppo alto lo yen, non è servito. Il rapporto yen-dollaro è 82-81, il rapporto euro-dollaro è, dicevo, a 1,39, vicinissimo a quota 1,40, e anche nei confronti del franco svizzero il dollaro continua a essere debole, debolissimo. Come a dire, e lo ripetiamo ormai da giorni, che nonostante l'incontro tra Unione Europea e Cina, domani il premier Wang Jiabao sarà in Italia tra l'altro, nonostante le richieste europee, la Cina ha detto i rapporti di cambio vanno bene così, e quindi l'America in qualche modo scarica sull'Europa, sull'euro, quella che è un eccesso di forza del dollaro nei confronti della valuta cinese. Nulla di cambiato quindi, anzi casomai peggiorato. Alcuni di voi ci hanno chiesto anche ieri giustamente, ma insomma qual è il rapporto di cambio giusto tra euro e dollaro? Quando l'euro era quota 1,20 sul dollaro dicevate che era troppo debole. No, noi non lo dicevamo, abbiamo sempre detto che un rapporto 1,15-1,20 è ancora un rapporto in cui sostanzialmente l'euro vale un 20% più del dollaro. Se vogliamo ragionare per accademia, si potrebbe immaginare un rapporto 1-1. Sicuramente adesso il fatto che l'euro valga un 40% in più rispetto al dollaro è un euro molto forte, che pone dei problemi alle imprese europee, quindi anche italiane, sull'export. E sappiamo che in questo momento l'unico elemento che sta tirando la ripresa è l'export. Di consumi infatti non se ne vedono e restano stagnanti in Italia, ma non solo. Per cui su questo i timori sono fortissimi. Detto questo, le borse vanno bene anche oggi: più 0,3% Milano, più 0,7% Parigi, più 0,6% Francoforte, più 0,7% Londra. L'America guadagna poco, lo 0,1%. I titoli migliori: Saipem più 3,5%, Geox più 3,20%, Azimut più 2,20%, Prismian più 1,70%, Ansaldo più 1,3%, Intesa più 1,1% come Tenaris, Eni più 1%, Mediobanca più 1%, Italcementi più 0,80%. Chi perde in pregilo? Il 2,70%, ST Microelectronics 1,40%, Mediaset meno 1%, Unicredito meno 0,90%, e Parmalat meno 0,7%, come Fiat, mezzo punto percentuale lo perde la Popolare di Milano. Quindi parleremo del rapporto di cambio, ma anche del vertice del Fondo Monetario Internazionale. Oggi le stime diffuse dal Fondo Monetario Internazionale sulla crescita economica. Devo dire che per quello che riguarda l'Italia c'è stato anche una revisione leggermente a rialzo, più 1% comunque, sia quest'anno che nel 2011. La media europea invece è un po' più alta, di un 70% più alta di noi, più 1,7%, e anche nel 2011 sarà più 1,5%, quindi noi continuiamo a crescere meno della, non dico la metà, ma insomma un 50% in meno rispetto alla media europea. Non parliamo poi della Germania, che va verso il 3% di crescita. In calo invece quest'anno il PIL di Grecia, Spagna e Irlanda. Mentre per quello che riguarda la crescita mondiale, insomma, confermato che i motori saranno Cina e India. 10% di crescita quest'anno sia per la Cina che per l'India, e 9,5% l'anno prossimo. Un po' di invidia viene. Per quello che riguarda le preoccupazioni del Fondo Monetario, insomma, anche il Fondo Monetario, come tanti altri istituti, dice: attenzione, il vero tema, e ce ne eravamo accorti, per il 2010, per il 2011 si chiama occupazione. 210 milioni sono le persone senza lavoro, e questo tasso di disoccupazione pone nelle economie avanzate problemi a livello sociale, tant'è che anche nell'area euro il tasso di disoccupazione è visto al 10% quest'anno, al 10% anche nel 2011, quindi non vi sarà un miglioramento dell'occupazione. Questo si chiama in americano, in inglese, jobless recovery, quindi ripresa economica senza creazione di posti di lavoro, o meglio, c'è la ripresa economica perché si sono fatti licenziamenti. E questa è la situazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche di un investimento importante annunciato oggi da Vodafone, da un lato, e dall'altro della decisione della provincia di Barletta, Trani e Andria, che oggi trovate su molti giornali, di chiedere ai privati di finanziare i banchi e altri oggetti scolastici. In cambio possono mettere, come avviene sulle panchine in alcuni casi, nei monumenti, nelle aiuole, possono mettere il loro logo, la loro targa. Interessante, perché da un lato non si può dire di no al privato, dall'altro però vedere che insomma le province, già si era mosso il Comune di Roma in tal senso, devono ricorrere ai privati per i banchi scolastici, la dice lunga anche, e qui non vorrei iniziare con le polemiche, sui tagli a cui è sottoposta il nostro sistema scolastico. Giusti o non giusti, i tagli ci sono e quindi si muovono le amministrazioni locali. Di questo parleremo dalle 18 in poi. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Per la precisione, quanto a dollaro, vedo già molte domande, siamo ai livelli più bassi da 15 anni sullo yen. Tra l'altro, per quello che riguarda la Corea del Sud, l'Unione Europea e la Corea del Sud hanno firmato oggi un accordo di libero scambio dal 1 luglio 2011, direzione dei tempi riguarderà alcuni settori come quello automobilistico. Imposti dall'Italia, c'era il timore di un'invasione di prodotti, in caso specifico di invasione di automobili coreane e quindi sudcoreane, quindi c'è comunque l'abbattimento delle barriere tariffarie che dovrebbe portare all'Unione Europea a nuovi scambi di beni e servizi per 19 miliardi di euro contro i 12-13 miliardi per la Corea del Sud. Però appunto le clausole di salvaguardia prevedono appunto la dilazione e misure di salvaguardia per alcuni settori, tra cui quello auto. Ancora, vedo che qualcuno suggerisce, di visti i dati dell'export della Germania, di taroccare le etichette in Made in Germany. No, guardate, Made in Italy è molto forte come marchio, non ha bisogno di nessun tipo di taroccamento, grazie anche e soprattutto alle imprese, ai lavoratori, agli imprenditori che mantengono alto il Made in Italy. C'è bisogno forse di altre iniziative a fronte dell'export e che le imprese italiane troppo piccole si mettano assieme, facciano rete, facciano sistema, iniziano a lavorare congiuntamente, tralasciando anche alcuni così attriti, egoismi, individualismi. Andiamo avanti però con l'economia internazionale. L'oro a nuovo record, 1349. Mamma mia, tutto questo come conseguenza della debolezza del dollaro. Dico mamma mia perché in una settimana l'oro ha preso $50 l'oncia. E anche l'argento ha toccato il valore più alto dal settembre del 1980, $23.06 l'oncia. Abbassato il voto dell'agenzia di rating Fitch sul debito irlandese, lo porta da AA- a A+, con prospettive negative. L'Irlanda resta in grosse difficoltà. E poi invece, per quello che riguarda la Grecia, Eurostat, che è l'agenzia statistica europea, rivedrà al rialzo tutti i dati greci sul debito e sul deficit e dice: attenzione, occorre una netta correzione di deficit e debito. Allora, aumenta la disoccupazione in Italia, anche qui evitiamo polemiche politiche. La disoccupazione, lo dice l'INPS, ha fatto più 3% ad agosto 2010 su agosto 2009, questo è l'ultimo dato disponibile. 66.000 domande di disoccupazione in più. Il 3% in più è sulle domande, non è sul tasso di disoccupazione, però sono il 3% in più. La cassa integrazione, sempre il dato dell'INPS, a settembre più 3% rispetto a settembre 2009, più 37% rispetto ad agosto, ma ad agosto, attenzione, le fabbriche sono chiuse, quindi sono molte, molte, molte ferie. E poi è vero, è proprio boom di riscatti del TFR, e questo è un altro dato, un indicatore delle difficoltà economiche. Attenzione, perché insomma, infatti il titolo è: la crisi economica comincia a fagocitare anche il TFR. Insomma, Asso Fondi Pensione ha elaborato i dati della Covip, che è l'autorità di vigilanza sui fondi pensione, e ha scoperto che nei primi sei mesi del 2010 per la prima volta c'è stato un calo degli iscritti ai fondi negoziali, non so, quelli dei metalmeccanici, quelli dei chimici, e questo è dovuto sia all'aumento dei licenziamenti, ma anche alla decisione di un certo numero di lavoratori di rivolgersi ai piani individuali di previdenza promossi dalle assicurazioni private. E infatti sono 15.000 gli iscritti ai fondi pensione negoziali in meno al 30 giugno rispetto al dicembre 2009. La Fiat spunta, secondo quanto scrive oggi il quotidiano di Napoli Il Mattino, l'ipotesi di realizzare una new co, una nuova società, anche sul modello di quella di Pomigliano, per cui nuova società e nuovi contratti, quindi rottura degli accordi e nuovi modelli contrattuali, anche per lo stabilimento di Cassino e di Mirafiori. L'obiettivo della Fiat, secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino, è di chiudere la partita il più presto e ottenere la più ampia governabilità possibile. E ancora sulle reazioni sindacali nel giorno in cui, ahimè, ci sono state nuove aggressioni in una sede della CISL nel Lecchese, e poi uova e fumogeni contro la sede nazionale della CISL a Roma. Bonanni ha detto, il segretario generale della CISL: occorre essere flessibili, sì, ma più pagati, o meglio pagati di chi flessibile non lo è. E poi ha rivendicato come a Pomigliano si sia ottenuto, grazie alla flessibilità, più salario e più investimenti. E poi il ministro alle infrastrutture, che dice che per completare il programma nel prossimo triennio mancano 50 miliardi di euro. E il mondo della finanza potrebbe contribuire con almeno il 50%. Il sottosegretario, invece, il viceministro delle infrastrutture e trasporti, ha detto che sulla Salerno-Reggio Calabria Berlusconi dovrebbe mandare l'esercito e militarizzare i cantieri in modo che questa benedetta opera si riesca a finire. Perché il problema vero, l'abbiamo raccontato anche noi, sono gli attentati, tra i 90 e i 100 attentati, a chiara indicazione della criminalità organizzata, che continuano a bloccare i lavori, visto che l'esercito andrà in Calabria a questo punto, no? Come battuta, cogliesse anche l'occasione, così la chiudiamo con questa benedetta A3. Volete sapere quanti sussidi di disoccupazione vuol dire 3% in più rispetto a un anno fa? Sono 66.000 domande di disoccupazione in più. L'Expo, adesso arriviamo anche agli altri temi. Allora, sembrava risolta la questione delle aree dove costruire l'Expo del 2015. Come ha ribadito questa mattina il sindaco di Milano, Letizia Moratti. Ci sarà un comunicato congiunto su una soluzione condivisa, regione, provincia e comune. Dico sembrava, perché poco dopo così parlò Roberto Formigoni. Il sindaco prenderà un'iniziativa nella quale spiegherà la proposta che ella preferisce. E quindi la proposta del sindaco non è, da come capiamo noi, condivisa. Dopodiché Roberto Formigoni ci ha assicurato che verrà in studio a raccontarci perché a tutto 2 settimane di distanza, poco più, dalla valutazione che dovrà fare il Comitato Internazionale, ancora non si sa in quali terreni verrà costruito l'Expo, almeno si sa i terreni, ma non si sa se ci saranno. Va bene, ricordiamo che Comune e Provincia vorrebbero la soluzione del comodato d'uso per poi permettere di costruire su questi terreni, e invece la Regione vorrebbe comprare queste aree con una new co, con una nuova società pubblico-privata. Primo tema, allora, World Economic Outlook, presentato a Washington, le stime del Fondo Monetario Internazionale, mentre nel mondo dei cambi, delle valute, continua a indebolirsi il dollaro e yen, euro e altre valute vanno a record nei confronti del biglietto verde. Abbiamo già anticipato alcuni dati sul Fondo Monetario, la disoccupazione è il vero rischio sociale, 10% nell'area euro quest'anno, 210 milioni di senza lavoro, la ripresa comunque mondiale procede, crescerà l'economia mondiale di quasi il 5% quest'anno e del 4,2% nel 2011. E ancora, crescerà un po' meno del previsto l'America, quest'anno del 2,6%, l'anno prossimo del 2,3%, mezzo punto in meno rispetto alle stime. Cresceranno invece molto Cina e India, 10% quest'anno, 9,5% l'anno prossimo. L'Europa crescerà poco rispetto a queste cifre, l'1,7%, comunque rivista al rialzo. Meno della media europea crescerà l'Italia, appena l'1%. E poi preoccupazioni sui paesi più a rischio. Alessandro Merli, in collegamento con noi da Washington, dove è inviato per il Sole 24 Ore. Buonasera. Sì, buonasera. E ringrazio anche per averci raggiunto in collegamento il professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, per motivi anche di tempi, vorrei sentire prima Franco Bruni, poi avrei da te anche un commento su Washington, Alessandro. Vorrei capire, professore, intanto se vuole commentare queste stime che ho ricordato del Fondo Monetario, ma a suo avviso, visto che lei oggi ne ha scritto anche in prima pagina sulla Stampa, cosa sta capitando sul fronte valutario? E cioè, il Giappone cerca di difendere lo yen, altrimenti non esporta più nulla, e lo yen continua a rafforzarsi. L'Europa incontra la Cina e chiede, insomma, che si rivaluti un po' la moneta cinese, è troppo debole rispetto alla potenza economica cinese e non capita nulla, l'euro continua a rafforzarsi sul dollaro. Prego. La situazione è una grave situazione di squilibrio delle politiche monetarie, che sono tutte schiacciate su tassi di interesse molto molto bassi, in particolare quella americana, che è un po', diciamo, il motore di tutto quanto. Questa non è una cosa che può continuare, è ovvio che produce eccesso di creazione di liquidità, tendenze speculative e poi questa sorta di gara a chi svaluta di più, dove ci si sono messi anche i giapponesi ieri in modo esplicito, ma dove da tempo siamo in molti. L'Europa in questo momento ha un cambio che si rafforza, perché di tutti i paesi, forse di tutte le aree monetarie, è quella dove c'è una banca centrale che appare perlomeno un filo più prudente. Molti ci chiedono sempre in questi casi cosa c'entra la banca centrale che muove i tassi di interesse con la valuta. Mettiamolo in maniera molto semplice, spero di non essere bacchettato dal professore: più alti sono i tassi di interesse, più rende quella valuta, e quindi uno tende a investire lì; più bassi sono i tassi di interesse, meno rende il denaro, e quindi quella valuta. Adesso so che verrò bacchettato. C'è una via ancora più diretta: se pensiamo che le valute hanno un prezzo che dipende dalla loro abbondanza, se io ne creo tantissimi di dollari, il prezzo del dollaro scende, esatto, contro le altre monete, quindi chi ne crea di più ha una valuta che si svaluta di più. E le banche centrali possono anche comprare valuta o vendere valuta, lo possono fare in tanti modi, anche finanziando un debito, Però qui la moneta ha anche altre origini. La moneta in molti casi viene creata perché, per esempio, per finanziare i disavanzi pubblici. In America questo è drammatico, ma anche in Europa purtroppo siamo... Cioè l'America sta stampando moneta, come si diceva una volta in gergo. Sì, sta stampando moneta per consegnarla al suo tesoro, che ha un grandissimo deficit, supera il 10%, probabilmente l'11%. Del PIL. In Europa peraltro succedono cose simili, insomma i nostri governi non sarebbero in grado di continuare a finanziare i nostri disavanzi se non avessero la possibilità di collocare i loro titoli presso le banche europee che a loro volta sono finanziate dalla Banca Centrale. È una situazione veramente molto difficile da vedere dove andiamo a finire, insomma. Ecco, mi dica le prospettive, senza magari beccarsi il gufo, che è il nostro animale, diciamo, un po' così per sdrammatizzare o esorcizzare. Cioè, l'America deve finanziare un deficit stellare, quindi stampa dollari, con la conseguenza che il dollaro si indebolisce. Tiene i tassi bassissimi, quindi non rende niente il deposito in dollari e uno già li compra poco. Se poi ne stampi anche di più, continua a indebolirsi il dollaro. E aggiungo io, molte operazioni sono anche di acquisto di altre valute. E per cui se tu compri euro è chiaro che l'euro si rafforza, questo vale in qualunque mercato. Se io compro tante mele, il prezzo delle mele tenderà a salire, se le vendo tenderà alla fine a scendere. E questa è una cosa, l'Europa tiene i tassi bassi. Allora, da quello che ricordo io, se tu stampi tanta moneta, oltre che indebolire il valore della moneta, imbarchi anche inflazione, professore. Beh, nel medio-lungo periodo questo è poi il problema, se esageriamo l'inflazione comincia, il pericolo di inflazione però per adesso è tenuto a bada dal fatto che c'è a livello mondiale una grande capacità produttiva, quindi in particolare da parte della Cina, dei paesi emergenti, c'è tanta manodopera, tanta nuova tecnologia che è pronta a produrre, quindi i prezzi sono calmierati, diciamo, un po' da questo. Se vogliamo vedere un prezzo che è indice dell'eccesso di creazione di moneta, dobbiamo guardare l'oro fondamentalmente, qualche materia prima che... Ecco, spieghiamo anche questo passaggio, perché l'oro ha fatto un nuovo record oggi, ha preso 50 dollari all'oncia in una settimana, e visto che l'oncia è 31,1 grammi, vuol dire che ha preso più di un dollaro e mezzo al grammo nell'ultima settimana. E l'argento è un nuovo record. Come si legano le due cose? Cioè, perché non quando la gente non ha più fiducia nella moneta e pensa che ce ne sia troppa e pensa che si svaluteranno e non ha grandi alternative, perché abbandonato il dollaro vede che anche altre monete vengono create in modo molto abbondante, alla fine è l'oro che diventa la moneta rifugio, per così dire. Perché comunque l'oro antica lo utilizzi poi, insomma, ha un suo valore d'uso anche, non è solo carta. Beh, diciamo, certamente, questo è un aspetto, però è più che altro simbolico, Keynes lo chiamava un relitto barbaro, ma insomma in realtà quando poi l'economia va male, c'è sfiducia, ci si rifugia lì. Non a caso quando scoppiano le guerre, Iraq, Iran, quello che è, l'oro schizza ai massimi. Ancora, professore, ci chiedono gli ascoltatori come se ne esce. Poi sentiremo da Alessandro Melli le soluzioni adottate dal Fondo Monetario Internazionale, che cosa suggerisce. Però insomma, il sentiero è stretto, perché da un lato i governi hanno bisogno, lo dico in maniera un po' semplicistica, di continuare a mantenere la liquidità nei vari paesi, se no l'economia frena e si rischia di nuovo la recessione, e quindi deve esserci denaro che costa poco in modo che possa circolare di più e le persone non arrivino con l'acqua alla gola, e persone intendo dire anche le imprese. Dall'altro però questo sta generando degli squilibri valutari, non solo l'oro ai massimi, con il piccolo dettaglio, professor Bruni, che il vaso di coccio è sempre l'euro. Cioè il dollaro si indebolisce, così l'America non ha problemi a esportare. Il Giappone, noi siamo ormai a quota 1,40 di nuovo qui tra euro e dollaro, 1,39,20 oggi. Sì, d'altra parte l'Europa è quella che ha una riserva, diciamo, di riforme più forte, perché l'Europa deve ancora fare il suo mercato unico in modo completo, e quando lo farà avrà una forte capacità di crescere di più, perché con un mercato unitario le nostre imprese sono in grado di vendere meglio e di rafforzarsi e di collocare meglio le risorse. L'Europa ha ancora una grossa riserva di efficienza nelle politiche economiche, perché se si mette a coordinarle meglio, e ci siamo quasi, perché stiamo discutendo a Bruxelles di coordinare le nostre politiche di bilancio, e fare delle riforme, diciamo, compatibili e stimolandosi uno con l'altro a farle, ecco, l'Europa ha una possibilità in più di perché è un po' indietro con le sue potenzialità di mercato. No, mi scusi, professore, però per come la capisco io, tutto questo problema potrebbe essere risolto se la Cina la smettesse di avere una valuta bassissima rispetto a quello che è il potere economico della Cina, che non rappresenta più una Cina di 10 anni fa, e iniziasse in questo modo, non dico a frenare un po' le esportazioni e aumentare un po' le importazioni, perché è chiaro che finché noi abbiamo l'euro 1,40 sul dollaro, in Cina è difficile esportare. Cioè, o la Cina si convince che deve iniziare a consumare qualcosa, perché sennò a forza di produrre e non dare al mondo di prodotti made in China, qua non compriamo più niente, si blocca tutto. Ho capito male? Secondo me la Cina sta crescendo anche nei consumi, sta crescendo da tutti i punti di vista, è un paese in transizione, la soluzione non è quella di una rivalutazione del renminbi, che senz'altro avverrà, ma non è solo risolutiva, anche perché quello che conta per la competitività dei prodotti cinesi è il cambio, ma anche i prezzi e i costi di produzione interni. In Cina stanno salendo, è importante che continuino a salire, i salari salgono, salendo i salari salgono i consumi, che stanno già salendo, le importazioni cinesi, intendiamoci bene, stanno salendo moltissimo, sì, il fatto che poi dopo salgano anche le esportazioni ancora di più, un altro paio di maniche. La Cina sta facendo il suo dovere di trasformazione e modernizzazione graduale, ed è ridicolo che tutto il resto del mondo scarichi su di lei le responsabilità che sono invece nostre. Dobbiamo fare le nostre riforme e anche alla svelta, cercando di trovare anche un tavolo dove coordinarci. Chiaro, è vero comunque che l'export italiano, per esempio, in questi mesi verso la Cina, pur non rappresentando in numero totale, in valore assoluto, una cosa enorme, ma è aumentato tra il 30 e il 40%, quindi i consumi in Cina. La Volkswagen diventerà quest'anno il primo produttore di auto al mondo, probabilmente, grazie alla produzione in Cina e non ad altro. Grazie professor Franco Bruni, che so che ci deve lasciare. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Alessandro Merli, ti ho fatto attendere, ma volevo che ascoltassi anche l'analisi di Franco Bruni. Secondo te dal Fondo Monetario arriveranno delle soluzioni, o vi sarà l'invito a tenere il debito e il deficit sotto controllo, però poi no? E lì dentro c'è sia l'America che l'Europa, per cui un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Alessandro? Ma oggi Olivier Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario, è stato abbastanza esplicito, ha parlato di 4 azioni principali che devono essere intraprese. Una è che le banche centrali devono continuare a tenere una politica monetaria accomodante, ma che non ci bisogna aspettarsi troppo da questa azione, perché i tassi di interesse ormai sono vicini allo zero e dappertutto, quindi, sì. Non sarà questo che sicuramente rilancia l'economia. La seconda è continuare l'opera di risanamento di un settore finanziario che continua a avere dei grossi problemi, banche sottocapitalizzate, banche zombie, come ha detto il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Terzo, risanamento dei conti pubblici, magari non fatto immediatamente, perché naturalmente potrebbe danneggiare quel poco di ripresa che c'è, ma con un piano a medio termine che tranquillizzi i mercati, cioè. Credibile, che dia un po' di calma ai mercati, che come si è visto sono molto nervosi, soprattutto sul fronte periferia dell'area dell'euro. Quarto punto, e ci ricolleghiamo a quello che diceva il professor Bruni e quello che dicevate poco fa, i paesi in surplus devono decidersi una volta per tutte a rivalutare il proprio cambio. Quindi la Cina, e soprattutto. Tra questi, Blanchard ha nominato esplicitamente la Cina e gli altri paesi asiatici. Questo non solo perché è nell'interesse dell'economia mondiale, ma anche perché, dice il Fondo Monetario, è nell'interesse della Cina stessa, dove tutto sommato il welfare, il benessere della popolazione è tenuto compresso da questo cambio artificialmente basso. La Cina ha bisogno di ampliare i consumi interni e affidarsi meno all'export, che è stato fino adesso il grande motore della crescita. Questo è un bene non solo per il resto del mondo, ma è un bene per i cinesi. Sì, perché il principio è chiaro: se tu hai una valuta cinese più forte, come cinese puoi comprare qualche prodotto in più, cioè ti costa meno comprare prodotti che arrivano dall'estero, no? Un po' come per noi, quando abbiamo l'euro più forte è chiaro che ci costa meno comprare prodotti fatti in dollari. La Cina ha un avanzo commerciale di centinaia di miliardi, cioè esporta molto più di quanto non importi, deve iniziare a mangiare anche lei, non può solo produrre cibo. Ti leggo una notizia appena battuta dalle agenzie, che rientra sul tema che abbiamo affrontato in apertura: i rapporti tra Europa e Cina, tra Cina e Stati Uniti, con l'euro che continua a essere fortissimo, a rafforzarsi, il dollaro che va a record ogni giorno. Allora, è stata annullata la conferenza stampa prevista oggi a Bruxelles per il vertice Unione Europea-Cina, a cui doveva partecipare il premier cinese Wang Jiabao. Ufficialmente ci sarebbero problemi logistici, ma lasciami dubitare. In particolare però potrebbe aver inciso l'irritazione del premier cinese per le pressioni ricevute in questi tre giorni da Bruxelles per aumentare il valore del yuan, del RMB, della valuta cinese. E proprio oggi Wang Jiabao aveva detto ai leader europei, ai imprenditori europei, non unitevi al coro delle pressioni, casomai rivolgetevi al dollaro americano. Insomma, la Cina è un po' irritata perché le si chiede di alzare il valore di cambio. Comunque, le soluzioni intraviste dal Fondo Monetario, Alessandro, ce l'hai raccontate. Le preoccupazioni invece? Ma direi che sono soprattutto due. Una è quella di questo debito sovrano ancora molto alto, soprattutto in alcuni paesi europei, e che deve essere rifinanziato a tempi abbastanza stretti, in proporzioni molto alte. Il fondo cita l'Italia come il paese che entro la fine del 2011 deve rifinanziare il 40% del PIL, equivalente del 40% del PIL, la Francia e gli Stati Uniti devono rifinanziare entro il 2011 il 20% del PIL, quindi sono cifre importanti. Il fondo dice, quando si tratta di cifre così grosse è chiaro che ogni minima turbolenza che colpisca un'asta di titoli di Stato può fare dei danni seri. L'altro è ancora quello della fragilità del sistema finanziario e delle banche, ed è chiaro che questi due fenomeni si intrecciano. La terza questione è quella della disoccupazione. Il Fondo Monetario dice esplicitamente: a questi livelli di crescita non ci sarà modo di riassorbire la disoccupazione, che rimarrà alta, 9-6% negli Stati Uniti ancora a fine 2011, 10% addirittura nell'area dell'euro. Per quello che riguarda quell'episodio di Bruxelles che citavi, non mi addentro nella interpretazione, che magari lascerei alla nostra corrispondente, certo, da Bruxelles, Adriana Cerretelli, però è chiaro che non è un segnale positivo, soprattutto considerato che oggi anche da qui si è ripetuto che l'unica via d'uscita da questa situazione è maggior cooperazione internazionale. Non mi sembra che in questi giorni di cooperazione internazionale sia molta. Possiamo dire che o veramente hanno trovato la stanza chiusa, problemi logistici, oppure si è irritato e non poco Wang Jiabao. Ce ne faremo una ragione, però insomma è chiaro che la Cina non vuole fare nessun regalo all'Europa e agli Stati Uniti. Vedo che c'è stato un giudizio del Fondo Monetario positivo sull'Italia, su crescita e deficit italiano. Noi cresceremo comunque della metà, di un terzo in meno rispetto agli altri paesi europei. In una mail di Goldman Sachs invece si ritiene probabile un peggioramento dell'economia americana nei prossimi 6-9 mesi. Ma soprattutto ho visto una dichiarazione del Fondo Monetario che dice: nelle attuali circostanze la deflazione è il rischio più pertinente, vuol dire che i prezzi invece che aumentare calano. Ma in effetti il fondo dice, in questo momento, nonostante tutta questa stampa di moneta, come dicevate voi prima, i rischi di inflazione non se ne vedono, magari si vede il rischio opposto, ed è per questo che la prima delle raccomandazioni cui ti ho fatto riferimento è proprio quella di continuare a tenere una politica monetaria tassi bassi, accomodante, tassi bassi, acquisto di titoli, le cosiddette politiche non convenzionali. Per quello che riguarda l'Italia, le modifiche rispetto alle proiezioni precedenti sono, direi, veramente marginali, nel senso che la previsione per quest'anno è dell'1%, era dello 0,9% nel luglio scorso, la previsione per il 2011 è pure dell'1% e a luglio il fondo prevedeva l'1,1%, quindi diciamo che siamo all'interno del margine di errore delle statistiche. Insomma, cresciamo meno della media europea. Grazie a Alessandro Melli, in collegamento con noi da Washington. Grazie a voi. No, questo lo dico perché allora alcuni ci chiedono, ma insomma cosa sta capitando? Proviamo a semplificare tutto. Se 2 anni fa si è rischiato il crack mondiale perché si era bloccata la finanza. Questa finanza, banche, sono state salvate con soldi pubblici. È un po' come se uno trovasse la casa che brucia e deve chiedere un prestito alla banca. Dopo un po' la banca il suo prestito lo rivuole indietro. Allora in questo momento la situazione è che i governi si sono indebitati da morire per salvare il sistema finanziario. L'economia non sta ripartendo, è come se tu non stessi guadagnando più soldi in busta paga, quindi ha difficoltà qualunque paese a stringere i cordoni, a aumentare le tasse, a aumentare i tassi di interesse, cioè a tornare a un livello pre-crisi, perché ha paura che toccare in questo momento i tassi o dare un giro di vite possa bloccare una ripresa fragilissima. E i mercati cosa fanno a questo punto? Si innervosiscono sui debiti dei paesi da un lato e vanno a penalizzare quelle valute che ritengono più deboli, la valuta americana in primo luogo, con l'aiuto dei governi stessi, perché all'America conviene tenere il dollaro debole e i tassi di interesse bassi. Insomma, stiamo ragionando delle ferite causate ancora vive dalla crisi di fine 2007. 2.200 miliardi il costo per le banche mondiali di questa crisi, solo per le banche. Poi c'è chi ci ha detto, ma insomma, quindi non è vero che l'Italia è uscita meglio di altri paesi. Io capisco che forse a marzo ci saranno le elezioni e qua il clima inizia a scaldarsi. Il dato è molto semplice: l'Italia l'anno scorso è calata come altri paesi europei, come la Germania, quest'anno cresce meno di altri paesi europei. Io rimando in onda adesso la dichiarazione di Emma Marcegaglia di una settimana fa su questo tema: siamo usciti meglio di altri. Il Centro Studi di Confindustria ha presentato le sue previsioni che parlano di una crescita del PIL per l'Italia nel 2010 dell'1,2% e una crescita del PIL per l'Italia nel 2011 dell'1,3%. Questo dopo aver perso tra 2008 e 2009 oltre il 6% di PIL. La situazione è che noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi. Quando si dice che questo non è stato, che noi siamo andati meglio di altri paesi, non è vero. Noi siamo stati fortemente colpiti dalla crisi. Allora, la borsa oggi non è che i rialzi siano così significativi, più 0,3% a Milano. Ripeto, le notizie oggi di mercato riguardano l'euro. Guarda qua, l'euro è 1,394, l'oro a nuovi record, l'argento a nuovi record, lo yen ai minimi sul dollaro da 15 anni. Queste sono le notizie di finanza oggi. Comunque, più 0,3% Milano, più 0,90 Parigi, più 0,90 Francoforte, più 0,80 Londra, più 0,1 l'America, bene Saipem più 3,70, Geox più 3%, Azimut più 2,30, Ansaldo più 1,70, Prismian più 1,5, Tenaris più 1,2 come Intesa San Paolo, l'1,1 lo guadagna Mediobanca, l'1% lo guadagna anche Eni, in pregilo invece meno 2,60, ST Microelectronics meno 1,5, Unicredito meno 1,20, Mediaset meno 1%. E Fiat meno 0,60 come Parmalat. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Come mai noi guadagniamo mezzo punto in meno? Beh, hanno pesato senz'altro l'andamento di Unicredit, ancora un po' colpita dalle incertezze rispetto alla corporate governance, e questa performance fiacca di Fiat rispetto al resto del settore auto. Oggi di Fiat, per quanto riguarda Fiat, sono arrivati i dati sulle immatricolazioni in Gran Bretagna, che per quanto riguarda appunto l'auto i veicoli a marchio Fiat hanno accusato un calo del 20% a settembre, quindi questo legato un po' allo slittamento annunciato ieri della produzione della nuova Panda ha un po' indebolito il titolo. Questi due titoli pesanti hanno finito per frenare un pochettino il nostro indice rispetto a Francoforte, Parigi, gli altri che tu segnalavi hanno fatto una performance migliore rispetto a Milano. Ancora, no, vedo alcuni ascoltatori che dicono, ma insomma notizie buone oggi ce n'è una, Vodafone, ne parliamo fra poco, un investimento importantissimo e nella rete italiana, la borsa non è andata male, dopodiché noi diamo le notizie che ci sono, alcuni giorni sono migliori di altri, questo vale per la vita e vale anche per questo programma, non è colpa nostra se il Fondo Monetario vede un po' di incertezza sulla ripresa economica e l'euro va a quota 1,39,2. Andiamo avanti sui titoli e sui settori, tu ricordavi giustamente un po' di incertezza su Unicredito, bene invece, molto bene Saipem. E lì forse c'è anche qualche notizia di carattere societario, diciamo. Beh, ci sono un po' di voci di mercato secondo cui Saipem potrebbe essere tra i potenziali acquirenti del gruppo britannico Wellstream, che ha rifiutato un'offerta d'acquisto da 755 milioni di sterline arrivata da General Electric. Questo ha spinto un po' il titolo, insieme anche a indicazioni da parte delle banche d'affari, che sono tornate a coprire bene il titolo, e quindi questi due elementi hanno permesso a Saipem di guadagnare quasi il 4%. Ancora tra i titoli più sottili, Azimut più 2,3%, interessante però, Sì, ieri è arrivata questa indicazione, diciamo, di ottimismo da parte del direttore finanziario, che nel corso di un convegno ha parlato di un raddoppio, della previsione di un raddoppio delle masse gestite nell'orizzonte di 5 anni. Attualmente Azimut gestisce 14 miliardi di masse gestite. Diciamo, questo ottimismo del direttore finanziario ha fatto bene anche al titolo oggi. Ancora per quello che riguarda, dicevo, i titoli più sottili, notiamo particolarmente bene oggi Fiera Milano più 16,7% e Tiscali più 7,5%. Fiera, immagino che scommetta che abbiano chiuso per i terreni dell'Expo, ma Tiscali? Per quanto riguarda Fiera Milano, sicuramente la speculazione di cui tu ricordavi, questo accordo arrivato sulla concessione dei terreni in comodato d'uso per appunto la costruzione degli edifici, delle aree interessate all'Expo, ha innescato la speculazione e ha fatto chiudere con la performance che tu ricordavi. Per quanto riguarda Tiscali invece, le indiscrezioni sono per un accordo in vista con il gruppo cinese ZTE, con cui Tiscali dovrebbe raggiungere un'alleanza strategica per lo sviluppo della banda ultralarga. Questo diciamo, ha dato una forte spinta a Tiscali, che invece ultimamente era un po' colpita da alcune indicazioni non troppo positive arrivate nei mesi estivi. Ancora per quello che riguarda altri titoli, peggiore la Lazio, un po' di realizzi dopo il botto di lunedì, meno 4,7%. Bene anche Carraro più 6,5%, invece male CHL meno 4,3% e la Roma meno 3,4% e l'aeroporto toscano meno 4,6%. Vedo molte domande sul rapporto di cambio euro-dollaro. Allora, alcuni chiedono in sostanza: ma non si può svalutare l'euro? Ragazzi, per svalutare una moneta occorre che qualcuno sia disponibile a comprarla più bassa, cioè tu. È un mercato chiarissimo quello. Se c'è una forte richiesta di euro, o meglio, se molti vendono dollaro perché comprano oro, perché comprano euro, perché comprano yen, il dollaro va giù come in qualunque mercato. Se domani arrivasse un'offerta di 1 milione di mele sul mercato all'orto di Milano, ortofrutticolo di Milano, il prezzo delle mele crollerebbe. È quello che sta capitando col dollaro. Allora, partiamo con il primo tema, e quindi Vodafone, che oggi ha annunciato praticamente un investimento che vale 1 miliardo in banda larga mobile nei prossimi 3-4 anni. Allora, un comune italiano al giorno dovrebbe essere messo in copertura di banda larga mobile nei prossimi 3-4 anni, 1000 comuni, un piano a 3 anni da 1 miliardo di euro. Sentiamo il numero 1 di Vodafone Italia, Paolo Bertoluzzo, e al microfono della collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Livia Zancanera. Noi come Vodafone crediamo che Internet sarà sempre di più al centro dello sviluppo della società e dell'economia di ogni paese, e quindi per i paesi sarà fondamentale avere a disposizione un'infrastruttura di accesso a larga banda ovunque sul territorio del paese. Per questo motivo come Vodafone acceleriamo i nostri investimenti per portare la larga banda, nel caso nostro ovviamente quella senza fili, sulla totalità della popolazione italiana. È un investimento importante per noi nei prossimi 3-4 anni. Crediamo che questo rappresenti una soluzione efficacissima anche al tema del digital divide. Oggi in Italia abbiamo più o meno il 12% della popolazione che non ha accesso a larga banda sufficiente, e noi ci impegneremo anche sul fronte digital divide. In particolar modo abbiamo lanciato questa iniziativa dei 1000 comuni, dove andremo giorno dopo giorno, un comune al giorno, a portare la larga banda in comuni, almeno 1000 comuni tra quelli che oggi non hanno ancora la larga banda. Comunque questo progetto ha detto che va avanti parallelamente rispetto alla realizzazione della rete unica di nuova generazione in Italia con gli altri operatori che sono Fast e Wind. Sì, questo è un progetto che portiamo avanti come Vodafone in totale armonia e collaborazione con le istituzioni, ma è un progetto privato, di un'azienda privata che porta avanti una sua iniziativa in competizione in un mercato nel quale ormai la competizione è ampissima, quello del mobile. Allora, da come la capiamo noi, visto che ieri vincitore del nostro concorso sul ministro dello sviluppo economico, fermo restando al numero 1 Emma Marcegaglia, al numero 2 Luca di Montezemolo, al numero 3 Oscar Giannino, e lui abbiamo invitato, aveva detto, attenzione, uno dei compiti del ministro dello sviluppo economico deve essere quello di districare sta matassa, per cui insomma mettere d'accordo i vari operatori tra loro concorrenti perché vi sia questo investimento in banda larga, che vuol dire avvicinare poi i comuni più sfortunati e rendere possibile, a parte tutta la burocrazia online, anche per le imprese lavorare con una velocità che in molti casi non hanno. Ecco perché poi si parla di competitività anche sulle infrastrutture delle telecomunicazioni, non solo sulle autostrade e sulle ferrovie. Stefano Quintarelli, fondatore di Net.it, consulente delle telecomunicazioni, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, mi faccia capire una cosa, abbiamo pochi minuti, ma questo investimento in qualche modo va a semplificare lo scontro in atto tra Telecom Italia e gli altri operatori su chi deve farsi carico dei costi della banda larga e chiaramente ogni operatore cerca di portare acqua al suo mulino o no? Sì e no, nel senso che sono due i temi sui quali c'è un confronto tra gli operatori. Uno è quello della riduzione del digital divide, portiamo la banda larga, portiamo l'acqua a tutti. E poi c'è un secondo tema che è quello, portiamo la rete di nuova generazione. Sul primo tema sicuramente questo sforzo di Vodafone Italia indirizza questo primo tema, cioè portiamo la banda larga a tutti, non tocca il secondo tema che è quello, portiamo la banda larga di nuova generazione. Ecco, digital divide, come si usa spesso, vuol dire semplicemente che chi abita in zone dove già c'è questa banda larga che permette di far transitare dati a velocità altissime ha un vantaggio divide, quindi digitale, rispetto a chi invece, è qui il divide, non ha questa copertura e quindi si trova a lavorare molto più lentamente. E per le imprese non è un dettaglio, immaginate un'impresa di servizi, un'impresa che ha bisogno di alta definizione, tutte le pratiche burocratiche, insomma, vuol dire avere due o tre Italie a quel punto. Sì, senz'altro, questa era una delle aree sulle quali si erano concentrati gli sforzi sia degli operatori ma anche del pubblico. No, ricordiamo i famosi 800 milioni di investimento per la riduzione del digital divide. No, ecco, ora tutte queste zone sono coperte, indirizzate da Vodafone Italia, quindi non sono più a fallimento di mercato, per cui a questo punto tutti i finanziamenti pubblici per la riduzione del digital divide in qualche modo dovranno essere rivisti, perché adesso c'è un operatore che ha detto ci penso io. Sì, tra l'altro finanziamenti che erano scomparsi in finanziaria, bloccati, poi ritornati, insomma non ce n'è più bisogno, ci sta dicendo lei, di questi 800 milioni di euro? Dico che a questo punto se fossero erogati probabilmente dovrebbero essere classificati come aiuti di Stato, perché non sono più aree a fallimento di mercato, cioè i soggetti privati stanno andando ad investire in queste aree. Quindi sicuramente questo è un aspetto importante, al di là del fatto del miglioramento della qualità della vita per quelle persone che poverine abitano in queste zone che sono un po' più disagiate, che è un fatto decisamente positivo. Un effetto collaterale di questo miglioramento di questa loro condizione è anche la semplificazione per lo Stato e per le regioni, che in qualche modo si troveranno a non dover più affrontare questo finanziamento, no? Non potendolo più fare, perché altrimenti sarebbero aiuti di Stato. Sì, quindi non dobbiamo più tirarli fuori noi questi soldi, posso brutalizzare così il concetto, o perlomeno lo Stato avrà 800 milioni per fare altro, fare magari la banda quella di ultra larga di nuova generazione, oppure, come penso io, metterli in cascina per il debito e il deficit. Però questa è una io mia. Spero che sia per la banda ultralarga. Vabbè, però c'è anche il debito e il deficit. Ne abbiamo parlato per tutta la prima ora, dopodiché siamo d'accordo che servono tantissimo, sono investimenti per competere. Le imprese italiane competono con imprese che quella banda larga ce l'hanno già nel resto d'Europa. Però, insomma, anche mettere in sicurezza i conti, lì lo sapete, in questo programma abbiamo sempre difeso la linea del ministro Tremonti su questo, che poi è la linea di Ciampi, Amato, Dini, Padoa-Schioppa, una linea virtuosa in Italia. Grazie comunque per la spiegazione, soprattutto a Stefano Quintarelli. Grazie. E se c'è un privato come Vodafone Italia che in qualche modo leva le castagne dal fuoco alle ristrettezze economiche di bilancio, perché appunto mette 1 miliardo per 1000 comuni, altri privati vengono chiamati in causa per, anche in questo caso, sopperire alle ristrettezze di bilancio. Sono privati generici, nel senso che sono tutti le aziende private che vorranno sponsorizzare gli arredi scolastici della provincia di Barletta, Andria e Trani. Allora, partiamo dai dati, anche qua lasciamo a casa l'ideologia. La spesa per l'istruzione scolastica in Italia è di 60 miliardi di euro, 43 a carico dello Stato, 10 degli enti territoriali, 5,5 per affitti figurativi. L'Italia è penultima nei paesi OCSE per spesa per la scuola, il 4,5% del PIL, con una media OCSE che è di quasi il 6%. E poi l'ultima manovra finanziaria, quella triennale, ha stabilito che verranno tagliati alla scuola pubblica 8 miliardi di euro in 3 anni, ossia circa 2 miliardi e 600 milioni di euro l'anno, fino al 2012. Sono 2 miliardi su 60, per cui insomma il calcolo è anche facile, ma sempre di 2 miliardi si tratta. 87.000 docenti in meno, 44.000 tra bidelli e segretari in meno. Sono distanziati, quindi senza che me lo scriviate ogni volta, invece 150 milioni di euro per la scuola privata. E questa è la situazione. Cosa è successo nel frattempo? È successo che a Genova una scuola, Tilio Odero di Sestri Ponente, si è tassata con una colletta di 1 euro a testa per giocare gratta e vinci. 80 professori sono tassati, hanno vinto 17 euro. A Verona, all'Istituto delle Golosine, bancarella durante la consegna delle pagelle per contribuire alla spesa per i collegamenti in ADSL della scuola. A Roma, liceo classico Dante Alighieri, noleggio delle aule per finanziare il laboratorio teatrale. A Brescia, la scuola Marcolini, sto citando i casi più noti, ogni 3 mesi i genitori organizzano una raccolta di tappi e il ricavato serve per la carta e per il materiale didattico. E poi all'istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano viene affittato l'istituto per spot pubblicitari con 1.000-1.500 euro di guadagno ogni volta. Tutto bene, voglio dire che affittare le scuole per fare entrare soldi e investirli fa bene. E poi c'è l'ultimo caso, che è quello di cui parliamo con il diretto interessato, ossia l'assessore provinciale all'istruzione della provincia di Barletta, Andrea Trani, Pompeo Camero, mi correggo. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, Camero, così? Camero. Camero, grazie. Perfetto. Allora, voi avete detto, ai privati delle nostre 53 scuole possono entrare, mettono 70 euro, IVA esclusa, per fare che cosa in primo luogo e in cambio di che cosa? Beh, si tratta di un pubblico incanto che parte con un avviso di procedura di sponsorizzazione. Si tratta semplicemente di far sì che i privati possano concorrere attraverso poi una targhetta, insomma, che viene apposta sull'arredo, all'acquisto degli arredi stessi. Tengo a precisare che l'operazione non è solo economica, anche perché lei sta parlando di una provincia neonata che per 2 anni non è tenuta a rispettare il patto di stabilità interno, però questo ci spinge comunque ad utilizzare le somme con oculatezza. E la difficoltà, per la verità, nasce quando avevamo già messo insieme tutte le offerte, o meglio tutte le richieste che erano derivate dai dirigenti scolastici degli istituti secondari superiori, e ci siamo resi conto che invece, dopo aver celebrato la gara, sono arrivate altre ulteriori richieste sulla base delle nuove iscrizioni. Allora, ovviamente abbiamo, con una mano, per dire, rimpinguato il capitolo di spesa, con l'altro ci siamo inventati questa, che è un'operazione, insomma, che va ben al di là della sponsorizzazione. Ma infatti avete avuto il plauso della provincia di Bari, che dice iniziativa lodevole. L'ufficio scolastico regionale della Puglia dice va bene il logo, non la pubblicità, e l'assessore al diritto allo studio della regione Puglia, Alba Sasso, ha detto la decisione invece è sbagliata, poi i sindacati degli insegnanti dicono siamo alla farsa. Però mentre si susseguono anche le segnalazioni degli ascoltatori, a Arzignano hanno comprato gli arredi per la scuola con l'aiuto dei privati nel 2004, vedevo altre segnalazioni prima che adesso ho perso, ancora a Lecco si sono trasformati in bianchini, elettricisti, tecnici di laboratorio, i vari presidi all'istituto Fiocchi, scusatemi, per poter inaugurare la sede. A Castel Guidone praticamente pagano un docente sfruttando i fondi provenienti dalla centrale eolica. Allora io le chiedo, ha di chiarirci cosa possono scrivere i privati su sti banchi? Perché banchi a scuola ne abbiamo già avuto un'esperienza non certo edificante con la scuola. Il messaggio è facile, il presente arredo è stato sponsorizzato dalla ditta anno scolastico bla bla bla. Come con le aiuole, diciamo, come con i monumenti. Tenga conto che questo è oggetto di un avviso che è regolarmente pubblicato. Ovviamente i fondi sono a destinazione vincolata, quindi non abbiamo nemmeno la possibilità di utilizzarli in altra maniera. Quello che però non vorrei sfugga ai più è che intanto siamo felicissimi che alcuni ci rappresentino le loro perplessità, perché sono già state le nostre perplessità prima che ne valutassimo la fattibilità tecnico-giuridica, e devo dire che le diverse sensibilità ci aiutano per questa possibilità plurale che noi abbiamo ovviamente di valutare questa iniziativa. Però è giusto che io dica che abbiamo voluto capire quanto interesse ci fosse anche per il mondo della scuola superiore nel nostro caso, perché gli enti, le province si occupano soltanto dell'istruzione secondaria di secondo grado, e devo dire che il riscontro è stato assolutamente incoraggiante. Allora, un'ultima domanda, assessore, però, dunque, io non ho niente in contrario, l'abbiamo sempre detto, all'ingresso dei privati nella scuola. Raccontavamo tempo fa, insomma, di anche a noi capita di portare le risme di carta, le penne, certo, negli asili, nel caso del sottoscritto, nelle scuole, va benissimo tutto. Un conto però è l'integrazione nel privato, che ti permette di avere un'aula in più, un'aula didattica in più, e altra cosa che qua le province inizino nel piano diciamo, scolastico a dire beh, tanto i soldi non ci sono, dobbiamo ricorrere ai privati. Cioè la differenza, non so se l'ho spiegata correttamente, qui voi state in qualche modo sostituendo i soldi che non vi arrivano con qualcos'altro? Ma no, guardi, noi qui stiamo innanzitutto osservando una scuola che è alle porte dell'attività lavorativa. In un osservatorio del mercato del lavoro sarebbe utile capire perché mai oggi, in epoca di decreti delegati, per esempio, non interagiscono gli imprenditori con organismi come per esempio i collegiali in ambito scolastico, dove abbiamo dirigenti scolastici, abbiamo docenti, personale ATA, genitori e quindi famiglie ed alunni. Invece questi ragazzi noi li formiamo per titoli di studio che lei sa ormai oggi degradano, perché ciò che conta è invece il certificato delle competenze e delle attitudini secondo un protocollo europeo. E beh, dico, perché dobbiamo ritenere la scuola un enclave? Noi dobbiamo invece ritenere che la scuola come agenzia educativa, specie in questa fase o in cui prevale la formazione, debba poter essere più vicino ad una società che evolve. Guardi, sono felicissimo dei contributi, anche non sono autoreferenziale, mi piace ovviamente aver animato questo dibattito, però le posizioni preconcette non ci aiutano, tantomeno quelle ideologicizzate. Proviamo un attimino a pensare, altra agenzia educativa è la famiglia, ma perché ai nostri figli in famiglia impediamo di vedere la televisione perché ci può essere pubblicità o pubblicità? No, guardi, nessuna ideologia, ben vengano i privati nelle scuole quando portano appunto, investendo in quella che si chiama corporate social responsibility, nella responsabilità sociale di impresa, nelle future generazioni. Altra cosa è quello che scrivono alcuni ascoltatori, ma non abbiamo spazio in questo momento. Sì, vabbè, ma noi paghiamo le tasse, dove vanno queste tasse? Il ragionamento è un po' diverso, cioè ci dovrebbe essere la garanzia, diciamo, degli investimenti scolastici, a cui poi aggiungere e sommare tutte le parti che riguardano il mondo del privato. Il bando scade? Il bando scade il 30 di questo mese, se ricordo. Offerte ricevute? Ah, guardi, ormai io sono quasi 48 ore che non dormo per rispondere a mail, telefonate. Più offerte che banchi? Ma guardi, gente comune addirittura. Che bello. Gente comune. Guardi, devo dire che io ne raccolgo un orientamento che vorrei che fosse rapido. Esteso all'intero paese. finalmente io ho avuto un segnale concreto che l'Italia vuole rimettere al centro dei propri interessi la scuola. Rimettiamo la scuola al centro dei interessi della nostra società. Sì, e magari diamogli anche qualche lira in più da parte del governo centrale e dei governi regionali. Grazie e in bocca al lupo, perché ci sembra così spiegata. È un'iniziativa lodevole all'assessore provinciale all'istruzione della provincia di Barletta, Andrea Trani, Pompeo Camero. Grazie. Salve. Allora, Giuseppe Cruciani, abbiamo chiuso con una buona notizia oggi, sempre i banchi scolastici stiamo parlando, però questa volta non c'è il simbolo della Lega, ci sono i privati e insomma anche un'Italia che poi nel piccolo si muove, hai visto quante richieste sono arrivate. Giuseppe. Noi parleremo invece di in apertura di un pranzo che si è svolto oggi davanti alla Camera, il cosiddetto pranzo della riconciliazione a base di pagliata tra Alemanno e Bossi, insomma tra la Lega e Roma. Alcuni l'hanno presa bene, altri male, vedremo. Va bene, allora argomento quasi culinario per la zanzara. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.